Mark, guarda alle tue spalle e poi mi dici. Mark si gira verso la finestra e a poche centinaia di metri vede uno sciame di insetti in volo nella loro direzione. Oh porca madonna, chiudiamo tutto subito qui ed andiamo ad avvisare gli altri. Ragazzi, andate voi giù ad avvisare i vostri amici, noi le aspettiamo qui. L'uomo intossicato, quello più preoccupato, sembra aver acquistato coraggio nel giro di un paio di minuti e subito dopo aver invitato i due refrattari a scendere giù, tira fuori dal suo zaino una tanica di benzina e due granate. A noi già ci hanno ammazzato una volta, ora se dobbiamo morire una seconda volta ci porteremo per mano anche qualcuno di loro. Mark e Rose guardano i due tipi quasi con compassione, poi il refrattario si rivolge ai due intossicati. Per me siete vivi e non c'è motivo per cui dovreste morire da soli, quindi io resto con voi. Anche io, risponde Rose. No, voi ve ne andate da qui e continuate la rivolta. Noi, se ci riusciamo, usciremo vivi da questo ufficio e ci aggregheremo a voi. L'intossicato apre la porta e fa segno ai due di uscire. Rose richiude subito la porta. Noi da qui non si esce. La frase stizzita della Rafrattarius manda su tutte le furie l'intossicato, che spalanca la bocca con i denti affilati e lancia un urlo simile a un ruggito che spaventa Rose. Se non te ne vai subito, resti con me fino a quando non ti digerisco. A quel punto Mark prende Rose per il braccio, apre la porta ed esce fuori dall'ufficio spingendo la ragazza. Noi vi aspettiamo giù per unirvi a noi. Non vi voglio dare l'addio, ma un addopo. Mark ha capito benissimo che le intenzioni dell'intossicato erano quelle di convincere i due a non morire con loro e per questo motivo ha provato a spaventare Rose. A dopo, amico! I due refrattari scendono veloci le scale e in meno di un minuto sono già davanti alla porta dell'appartamento dove ci sono Aki, Cora, Martin e Ashlyn. Chiudiamo tutte le finestre immediatamente. Mark invita i suoi compagni a muoversi mentre lui stesso sta già provvedendo a chiuderne una delle quattro. Cosa accade, Mark? E gli altri due uomini dove sono? Aki segue con lo sguardo i movimenti accelerati del suo amico. Sono su ad aspettare lo sciame di quelle vespe del cazzo che stanno per attaccarci. Ma che cazzo succede in questa città di merda? Aki non si spiega tutto ciò che da un po' di tempo accade. Prima gli sbirri topi, poi quella specie di zombie, adesso le vespe. Se non fosse che ho smesso di assumere droghe da un po', penserei che fossero allucinazioni. Zitto, Aki, Ashlyn, che spia da dietro le tente la situazione, ha sentito qualcosa provenire da fuori. Sembri la mia vicina di casa, Ashlyn. Stai sempre ad ascoltare e guardare da dietro le tente. Cazzo, Aki, stai zitto un attimo. La ragazza argentina, con un tono secco e fermo, zittisce definitivamente il refrattarius. Sentite anche voi? Cosa, Ashlyn? Risponde Mark. Sente lo zio molto vicino. Mark si avvicina alla finestra, alza lo sguardo ed esclama: oh cazzo, ci saranno almeno una cinquantina di vespe su quel tetto di fronte. Bisogna aiutare quei due sopra. Rose non è ancora convinta del fatto che i due intossicati siano da soli. Ti vuoi far staccare una mano a morsi, Rose? Un mezzo sorriso e una strizzatina d'occhio bastano a Mark per convincere la ragazza. All'improvviso un rumore di vetri infranti ed il ronzio diventa più forte. Gli insetti hanno sfondato i vetri dell'ufficio dove sono rifugiati i due intossicati. Tutti gli uomini vespa invadono l'ufficio, ma non trovano nessuno. I due intossicati sono nascosti dentro la toilette e dal buco della serratura controllano le finestre. Quando non vedono più entrare insetti, aprono la porta di scatto e, facendosi scudo con torce costruite sul momento, si fiondono davanti alle due finestre ed iniziano a dare fuoco alle tende. Gli insetti, che non tollerano il fuoco e fumo, cercano in primo momento di trovare altre uscite, ma i due intossicati hanno blindato tutto. Quando si vedono persi e senza via d'uscita, gli uomini vespa decidono di attaccare i due intossicati. Nel giro di pochi secondi i due uomini sono circondati da tutto lo sciame di insetti e quando parte l'attacco, prima un'enorme fiammata e dopo un'esplosione, sventrano l'ufficio non lasciando scampo a nessuno degli occupanti. I due intossicati avevano cosparso l'ufficio di benzina prima dell'invasione degli insetti e quando erano stati attaccati avevano dato fuoco al pavimento e subito dopo avevano tirato la linguetta alle granate che avevano nelle tasche dei cappotti senza farsene accorgere. Il forte botto viene udito dall'appartamento dove sono nascosti i refrattarius. Coram si affaccia alla finestra e dà uno sguardo verso i piani superiori e vede che dall'ufficio escono solo fiamme e volano via brandelli di Inset. Approfittiamone ora e scappiamo da questo posto immediatamente. Coram, ma che ne sappiamo se sono morte tutte le vespe? Marco non è tanto convinto dall'abbandonare il rifugio. Mark, fidati, affacciati e vedi che non esce più una cazzo di vespa da quelle finestre. Non perché manca la fiducia in Coram, ma istintivamente Mark si precipita alla finestra e dà un'occhiata per assicurarsi. Ok, ora o mai più, tu zoppo salta sulle spalle. Ovviamente l'aggettivo è riferito ad Aki da parte di Mark. Il gruppo raccatta tutto quello che gli serve e in poco meno di 3 minuti stanno già discendendo le scale del palazzo. Prima di uscire dal portone, Coram dà un'occhiata nei due lati della strada per assicurarsi che non ci sia nessuno. Ok, possiamo andare ora. Il gruppo, camminando sempre là dentro ai palazzi, si incammina verso l'ospedale che dista poco più di 200 metri. Coram è in testa al gruppo con Atin, in mezzo c'è Mark che si lamenta per il peso di Aki sulle spalle e dietro ci sono Ashlyn e Rose che coprono le spalle con armi in pugno. Prendiamo quel vicoletto ed evitiamo gli stradoni che sono più pericolosi e controllati. Marco consiglia al frattario sul percorso da fare. Conosci quel vicolo, Mark? Risponde Ten. Lo conosco come le mie tasche, lo frequentavo anni fa. Sulle rassicurazioni di Mark, il gruppo svolta la stradina stretta e subito dopo svoltano in un'altra molto simile. Un fischio proveniente da una finestra li fa sobbalzare per un attimo. Ehi, shh, sono Beppe, salite. Beppe, abbiamo il ferito. Dobbiamo portarlo urgentemente all'ospedale prima che perda anche l'altro occhio. Mark è sorpreso nel rivedere l'uomo che avevano incontrato sulle barricate quando erano arrivati a 013. Non fare storie e salite. Abbiamo tutto il necessario per i soccorsi e in più c'è una sorpresa per voi. Sorprese, ancora sorprese? Ne abbiamo già avute tante dal nostro ritorno. Comunque saliamo. Aki invita i suoi compagni a salire anche perché è stremato e l'occhio gli fa malissimo. Dopo un minuto un portone si apre ed un rivoltoso invita i ragazzi a muoversi alla svelta. Entrati nell'atrio del palazzo sentono una voce dall'alto che li prende in giro. Guarda un po', c'è la rivolta generale e voi ve ne andate a fare i turisti per le strade di Nazero 13. Ah, ah, ah, ah. C'è poco da ridere, testa di cazzo, esci alla scoperta, sei alle palle. Ad Atino non è piaciuta per niente l'affermazione e risponde a tono all'uomo nascosto dietro una finestra. Sempre la solita, Atin, giù un'altra risata. Siete a fondo la canna della pistola in bocca, la finisci di fare questa risata da imbecille. Dal secondo piano vola giù una rosa che atterra davanti ai piedi di Atin. La refrattario si alza lo sguardo insieme agli altri ed il suo viso imbronciato cambia stato d'umore nel giro di pochi secondi. Tova, che cosa ci fai tu qui? Allora siete vivi? Rosa non riesce a credere ai suoi occhi. Solo io, gli altri sono stati sequestrati da quei topi di merda. Il gruppo di refrattarius non sanno se essere contenti perché almeno uno del terzo gruppo è ancora libero e vivo, o essere tristi per gli altri. Dacci una mano con Aki che pesa, scendi giù Tova, Mark è stremato e chiede rinforzi. Arrivo subito. Thank you. Radiazione, diretta d'azione lunedì 17 novembre, quindi lunedì e come ogni lunedì piove. Claro. Sono tornati tempi piovosi, tempi normali per le dirette d'azione del lunedì. Noi siamo contenti perché quindi questo ci fa capire che tutto fila liscio, tutto va bene, è un cazzo. Allora ricordiamo subito gli indirizzi di radiazione, non prima di ricordarvi che oggi, essendo lunedì, la diretta d'azione comprende la controinformazione, ma soprattutto le letture. Abbiamo appena letto Nazero 013, dopo gli indirizzi utili ascolteremo un brano e poi si inizia con la lettura, con la prima di quest'anno, Nessuno ci salva, di Sergiu Spiasecki. Ricordo che chi ha perso le ultime letture nella prediretta prima delle 5, proprio come ultimo pezzo, gli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora della prediretta, si manda in onda l'ultima parte letta del libro, in questo caso Nessuno ci salva. Allora, gli indirizzi utili, radiazione@autistici.org per chi vuole mandare qualsiasi scritto o comunicato da far apparire sul sito di radiazione, oppure materiale da poter far scaricare gratuitamente attraverso la pagina di download sul sito che è radiazione.org, dove potete leggere la controinformazione aggiornata, dove potete riascoltare le dirette d'azione attraverso i podcast. Ora non c'è più la categoria, c'è una pagina e li trovate tutti là, c'è la pagina podcast radiazione, la aprite e trovate tutti i podcast degli ultimi 2 anni, praticamente da quando sei iniziato a registrare i podcast. Dicevamo, la controinformazione aggiornata la potete leggere sul sito di radiazione, nella diretta potete ascoltare un po' qualche articolo letto o qualche riflessione. La radio trasmette sul server anarchia.net, messa a disposizione dal compagno di The Anarchist Library, che salutiamo sempre e ringraziamo. Allora, ora ci ascoltiamo un brano, loro sono RTPN con il brano Blinded Terror, e poi dopo si torna qui e si inizia subito con la lettura di Nessuno ci salva di Sergiu Spiasecki. We'll be right back. un merlo conquista gli speroni ladreschi. Fin dal principio della loro conoscenza, Baran aveva preso in simpatia Jan. Gli piaceva quel ragazzo sempre così cortese, volenteroso e allegro. Baran considerava delle persone colte anche Stash, il cocchiere, e il professore, ma ben presto si accorse che Jan aveva una cultura molto più vasta della loro. E tuttavia non se ne vantava mai, né si dava aria da sapientone. Spiegava anzi volentieri quello che sapeva, ma quando ignorava qualcosa lo confessava sinceramente, cercando la risposta nei libri. Oleg voleva aiutarlo finanziariamente e perciò decise di insegnargli il proprio mestiere, come già gli aveva impartito le prime nozioni dell'arte del calzolaio. Era convinto che ne avrebbe fatto un ladro in gamba, audace, furbo e intelligente. Gli mancava solo un buon maestro. E a Baran, che oramai sentiva il bisogno di trasmettere a qualcuno che ne fosse degno tutte le sue conoscenze pratiche e teoriche, che aveva acquistate con tanta fatica durante i lunghi anni, e quindi incominciò a portarlo con sé in qualche affaruccio di poco conto, affidandogli l'ufficio di palo, soprattutto. Jan assolveva i suoi compiti con molto impegno. Così, a poco, Baran iniziò il ragazzo a tutti i misteri della sua arte, ma non voleva ancora introdurlo nel mondo vero della malavita. Gli descriveva però quel mondo in tutti i particolari, parlandogli di ricettatori, di agenti, di ladri, di covi e di galere, narrandogli le imprese più rischiose da lui compiute. Ogni tanto portava dalla città dei lucchetti che rubava senza altro motivo che quello di farli vedere a Jan. Li toglieva dalle porte delle cantine, dei solai, delle case d'appartamento. Li smontava spiegandone al giovane i meccanismi e mostrandogli come e con quali strumenti un buon ladro potesse aver sempre ragione di qualsiasi tipo di lucchetto o di serratura. Poi gli illustrava l'uso del grimaldello e quello del piede di porco, attrezzi indispensabili per ogni scassinatore. Infine, per rendere più interessanti e varie le sue lezioni, classificava i vari colpi di mano e il miglior modo di eseguirli, elencava le specialità della malavita e di ognuna illustrava le caratteristiche e citava degli esempi. Aveva persino iniziato il suo allievo alla difficile tecnica per scassinare le casseforti. Jan, dal canto suo, era un discepolo assiduo e pieno di buona volontà. Quella materia, nuova per lui, lo interessava assai e, poiché non esiste alcun manuale della teoria e della storia del mestiere ladresco, ascoltava con attenzione e imparava dalla viva voce del maestro. Taciturno per natura, Baran diventava loquace con Jan, rispondeva esaurientemente ad ogni obiezione e chiariva le situazioni più difficili e intricate. Non v'era aspetto di quella scienza che egli non conoscesse a fondo e nello stesso tempo faceva partecipare Jan alle sue imprese ogni volta che riteneva necessario dare al ragazzo una lezione pratica. Dal giorno in cui i tedeschi erano entrati in Minsk, era cominciata per i ladri una nuova era. Il cambiamento delle autorità aveva creato un certo disorientamento da cui i ladri non mancavano di trarre il massimo profitto. Un vasto campo di azione si era offerto soprattutto ai truffatori, e questa specialità era piaciuta più di ogni altra a Jan. Ormai era un ladro audace e provetto, ma il furto gli dava poca soddisfazione. Invece ogni truffa combinata con astuzia e portata furbescamente a buon fine, con scorno dell'avidità e della dabbenaggine del prossimo, lo appassionava e lo divertiva un mondo. Conoscendo già bene il mercato, prese a lavorare in proprio, specializzandosi nelle truffe all'americana. In seguito conobbe altri giovani esperti in questo ramo e allora lavorava spesso in società con loro. Escogitava sempre nuovi sistemi di truffa, uno più ingegnoso dell'altro, e per divertirsi non adottava mai due volte il medesimo. La truffa, più che un sistema di lucro, era uno sport per lui. È giorno di mercato, passeggiando per il Monte della Trinità, Jan osserva attentamente tutto ciò che si svolge attorno a lui. La piazza è spaziosa, piena di bancarelle. Jan porta sotto il braccio, avvolto in una grossa carta gialla, del cuoio per sole di scarpe di ottima qualità. Sotto la falda del cappotto ha un pacco identico, salvo che invece di cuoio contiene cartone. Tuttavia, il peso e la forma e la consistenza dei due pacchi sono tali e quali. A due passi da Jan si aggira il suo socio, Malice, uno specialista come lui in questo genere di truffe. Malice pretende di vendere un anello d'oro, non è affatto oro, ma chiunque giurerebbe che lo è. Un contadino si avvicina a Jan. «Ehi, tu, vendi del cuoio?» «Eh sì». Jan apre il pacco e mostra all'uomo la merce. L'altro, con fare svogliato e un'aria sprezzante, prova la solidità del cuoio, tira, tocca, palpa e sebbene trovi il cuoio perfetto, borbotta. Qualità scadente, non durerà neppure un mese, appena bagnato diventerà come carta pesta. Jan riprende il cuoio e lo avvolge ancora nella carta. Beh, se non ti piace, non comprarlo. Ma il contadino vuole sapere il prezzo, sa che è merce di prima qualità, ma vorrebbe spendere il meno possibile. Te lo do tutto per 1200 rubli, dice Jan. Io te ne do 500. Ma io non lo lascerei neppure per 1000, risponde Jan, cacciandosi tra la folla. E allora gli si avvicina Malice. Hai del cuoio per sole? Gli chiede a voce alta per richiamare l'attenzione del contadino. Sì, risponde Jan, e apre ancora una volta il pacco. Malice esamina la merce attentamente, tenuto d'occhio dal contadino che appare preoccupato e si avvicina in fretta ai due giovani per ascoltare quello che dicono. Beh, quanto vuoi per tutto? Chiede Malice. Ho bisogno di cuoio come questo per la mia calzoleria. L'ultimo prezzo è di 1100 rubli, risponde Jan. Te ne do 1000, mercanteggia Malice. Ho detto 1100, non un rublo di meno. Malice esitante si allontana e allora il contadino si fa avanti e chiede: qual è dunque il tuo ultimo prezzo? 1100. Beh, te ne do 1050, è già un buon prezzo, no? Jan disfa il pacco per la terza volta e prende in mano il cuoio. Ma guarda che merce è questa, non ne troverai un altro uguale. Ma il contadino continua a ripetere: ti do 1050 rubli. No e poi no, risponde deciso Jan. Ti avvolge il pacco e se lo mette sotto il cappotto e fa per andarsene. Il contadino lo trattiene per il braccio. Beh dai, dammelo qua. Jan tira fuori il pacco con il cartone, lo consegna al contadino, prende i soldi e si allontana tra la folla. Poi, da una certa distanza, osserva il compratore. Questi va al carretto, ficca il pacco sotto il sedile, lascia tutto in custodia di una donna, certamente sua moglie, e ritorna ancora nella piazza. Se ne accorgerà appena a casa, pensa Jan, e va in cerca di Malice. E questi erano Placebo Effect con il brano Move, dopo la prima lettura per oggi di Nessuno ci salva di Sergio Spiasic, che invece ora passiamo alla controinformazione. Si va in Grecia subito perché il compagno Nikos Romanos è entrato in sciopero della fame, ce lo fa sapere attraverso un testo intitolato Asfissia per un soffio di libertà, che ora andiamo a leggere. La scorsa primavera ho sostenuto l'esame d'ammissione all'interno del carcere e sono stato ammesso all'Università di Atene. In base alle loro leggi, quindi, da settembre 2014 sono idoneo al permesso formativo per poter frequentare i corsi. Come previsto, le mie richieste sono finite nella catasta delle cose indesiderate, un fatto che mi ha portato a pretendere questi permessi utilizzando il mio corpo come una barricata. A questo punto sento la necessità di chiarire il mio ragionamento politico per creare un contesto della scelta che sto portando avanti. Le leggi, oltre ad essere gli strumenti di controllo e oppressione, contemporaneamente servono a mantenere l'equilibrio o quello che noi in modo sommario chiamiamo contratto sociale, riflettono le associazioni politiche e sociali e parzialmente formano certe posizioni per la condotta della guerra sociale. Per questo motivo voglio che la scelta che ho fatto sia più chiara possibile. Non sto difendendo la loro legittimità, al contrario, sto mandando un ricatto politico per conquistare qualche soffio di libertà dalla schiacciante condizione della carcerazione. A questo punto si solleva una questione riguardo le nostre rivendicazioni in stato di prigionia. È un dato di fatto che le contraddizioni sono sempre esistite e sempre esisteranno in tali condizioni. Noi ad esempio abbiamo partecipato nello sciopero della fame di massa dei detenuti contro la nuova legge sulle carceri di massima sicurezza, anche se siamo dei fanatici nemici di tutte le leggi e allo stesso modo molti compagni hanno usato i propri corpi come delle barricate per negoziare le condizioni della propria reclusione, detenzione preventiva illegittima, rifiuto della perquisizione corporea, permanenza in un carcere particolare, e quello che hanno fatto era positivo. La conclusione è perciò che in tali circostanze siamo spesso costretti ad entrare in una guerra strategica di posizione, la quale è il male necessario nella nostra situazione. Con questa mia scelta, le cui caratteristiche politiche sono specificate nel titolo stesso del testo, viene offerta la possibilità di creare un fronte di battaglia in un momento che è particolarmente critico per tutti noi. Precisamente la poesia è l'arte della purezza, è quella che rimane insubordinata quando l'ordine della trasparenza sottomette tutti gli strumenti della parola, quando le parole vengono accuratamente disinfettate e adornate come i marchesi sulla corte, dato che finiranno nel letto della principessa e quando ciò li potrebbe spaventare, essi si dipingeranno se stessi come dei modesti e fingeranno di possedere delle virtù che hanno da tempo perso nella fogna di compromessi e prostituzione. La poesia o è intransigente o non è nulla. Jean-Marc Roulin. Compagni, siamo stati murati come ormai da tempo dai blocchi polizieschi e pogrom antiterroristici fino ai consigli degli economisti che stermina coloro che non rientrano nelle loro statistiche, dagli industriali greci che resistono all'assalto dei conglomerati multinazionali sostenendo il tardo socialismo del partito di Syriza, fino allo stato di emergenza dove i politici cercano la mano degli ultrapatrioti sempre servili per il bene del paese, dagli sbirri e dall'esercizio che sono stati equipaggiati con le armi all'avanguardia per sopprimere la ribellione, fino alle carceri di massima sicurezza. Chiamiamola con il proprio nome, se lo Stato sfrutta tutto, non è altro che inerzia quello che è stato istituito come condizione naturale. Presto sarà troppo tardi e l'autorità si dimostrerà clemente solo verso coloro che si inginocchiano obbedienti di fronte alla sua onnipotenza. Il sistema prevede un futuro in cui i rivoluzionari sono sepolti vivi nelle strutture di correzione per trattamento intensivo, nelle quali attenderanno la loro distruzione fisica, mentale e morale. Un museo innovativo dell'orrore umano, dove i viventi in mostra sono esposti con dei cartelli appesi con su scritto un esempio da evitare, delle cavi umane sulle quali saranno testate tutte le intenzioni sadiche delle autorità. Ognuno può arrivare ad una risposta ai dilemmi e fare le proprie scelte, sia gli spettatori seduti in poltrone isolate che conducono una vita castrata, che gli attori degli eventi che modellano il corso della storia. Quella notte abbiamo tenuto lo sguardo fisso sull'orizzonte e abbiamo visto molte stelle cadenti disegnare le proprie vie caotiche, e le abbiamo contate ancora e ancora. Abbiamo espresso desideri, abbiamo calcolato le probabilità. Sapevamo che il nostro desiderio di vita libera doveva passare soprattutto quello che ci opprime, ci assassina, ci distrugge. Così ci siamo immersi nel vuoto, proprio come le stelle cadenti che stavamo osservando. Da allora innumerevoli stelle sono cadute. Forse è il momento che cada anche la nostra stella, chi lo sa. Se avessimo avuto le risposte pronte, non saremmo diventati quello che siamo, bensì dei bastardi egoisti che vogliono insegnare alle persone come diventare dei roditori che si mangiano a vicenda, come loro lo fanno oggi. Perlomeno rimaniamo ancora implacabili e testardi come le persone della nostra specie, e quelli di noi che hanno chiuso gli occhi nella sofferenza e sono andati lontano continuano a mantenere i loro occhi fissi su quel cielo notturno che anche noi abbiamo osservato, e ci guardano cadere stelle meravigliose e splendenti. Adesso è nostro turno, adesso senza esitazione cadiamo. Da lunedì 10 novembre 2014 inizia lo sciopero della fame senza fare neanche un passo indietro, con l'anarchia sempre nel mio cuore. Responsabili per ogni giorno di sciopero della fame e qualunque cosa accada da questo punto in avanti è l'amministrazione del carcere, vale a dire il PM Nicolas Pimenitis, il direttore Ciaralabia Kutsumokali, come anche gli assistenti sociali. Solidarietà significa attacco. Poi c'è un post scritto, ma a tutti i combattenti da salotto, agli umanisti di professione, agli intellettuali sensitivi e personaggi spirituali. Anticipatamente a mai più. Nikos Romanos, detenuto nel carcere di Corinth all'Ossa ad Atene, Grecia. E questo era il primo testo con cui iniziamo la controinformazione di oggi. Oggi è il 17, però lo leggiamo solo ora perché il testo era in fase di traduzione, è un po' fino a lunghetto, quindi si è aspettato. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono The Algorithm, Antichitera Mechanism, e poi dopo si ritorna qui con Nessuno ci salva di Sergio Spiaseschi. Quando si recava al mercato, Jan si vestiva diversamente dal solito. Indossava il cappello, mentre di solito portava un berretto da ciclista e inforcava un paio di occhiali di corno, le cui lenti erano di vetro comune. Evitava, quasi sempre, di incontrarsi coi clienti con i quali aveva già avuto a che fare. E quando i mercati si dimostrarono ormai sfruttati e cominciò a diventare rischioso frequentarli, Jan sloggiò nelle strade della periferia, nei sobborghi, nelle vicinanze della stazione. La sua situazione finanziaria era molto migliorata. La miseria se n'era andata dalla sua casa. Ora si vestiva bene, si era fatto più disinvolto, aveva un piglio più deciso, uno sguardo più audace. Si sentiva un uomo capace di cavarsela in ogni situazione. Il suo romanzo con Maruscia durava ancora benché non gli andasse giù quell'amante capricciosa, prepotente e bisbetica. Maruscia lo trattava ancora come un moccioso a cui bisognava insegnare ad amare e a vivere, ed era appunto questo suo atteggiamento che lo irritava. Inoltre, provava vergogna ogni volta che ella accennava alle sue prime esperienze amorose, quando era ancora così timido e così sciocco. E quel modo di fare di Maruscia, disinvolto e quasi ironico verso di lui, gli sembrava ora, che era diventato uomo, decisamente offensivo. Cominciò a saltare le lezioni, a essere meno assiduo con lei. Si voltava sempre più spesso a guardare le altre donne e si interessava sempre meno a Maruscia Lobova. A un certo momento decise di non andare più affatto da lei, ma dopo alcuni giorni l'attrazione sensuale lo gettò nuovamente tra le braccia dell'amante. Sentiva che ciò era una prova di viltà e debolezza, ne soffriva, certo, si riprometteva di farla finita, sì, una buona volta. All'inizio del loro romanzo, Maruscia si era illusa che il giovane l'amasse. Credeva di avere tra le mani un ragazzo inesperto e docile che avrebbe potuto assoggettare facilmente alla sua volontà e ai suoi capricci. Ma poi si accorse che Jan non era innamorato di lei e che anzi si infastidiva alle sue dimostrazioni di tenerezza. Comprese che egli si serviva di lei soltanto per calmare i sensi da lei stessa svegliati e nello stesso tempo si accorse di essersi seriamente attaccata al ragazzo. E un giorno gli chiese: «Jan, mi ami?» Interdetto da questa domanda inattesa, egli tacque. «Beh, non rispondi», insistette la donna. «Sì», disse lui indeciso. «Sì, sì», ripete Maruscia. «Un sì come questo vale ben poco, sai. Rispondi sinceramente». «Beh, non saprei». «Che cosa?» «Non saprei dire se ti amo, anzi, non so nemmeno che cosa sia l'amore». «L'amore è che tu mi preferisci a tutte le altre donne, che pensi spesso a me, che senti la mia mancanza quando sono lontana, hai capito?» «Ho capito, e allora non ti voglio bene», disse con calma franchezza Jan. «Ah, è così, vigliacco, io che ti ho dato le lezioni, sono stata buona con te, tu, si fece rossa in viso e negli occhi le balenò una luce cattiva. «Sei tu che l'hai voluto, io non ti ho mai chiesto niente, non ho fatto che ubbidirti», rispose egli pacatamente. «Fuori di qui!» gridò Maruscia esasperata. Tranquillamente, Jan si alzò e uscì salutandola con un «arrivederci». Era calmissimo perché sicuro di non essere dalla parte del torto. Gli ripugnava fingere un amore inesistente per Maruscia, come in genere gli ripugnava la menzogna ispirata dal calcolo e dalla codardia. Pochi giorni dopo Jan incontrò Maruscia in strada, vicino a casa. L'incontro non era casuale. Maruscia si era accorta che Jan stava per uscire perché era andato, come sempre quando usciva, ad avvisare il meccanico e si preparò dunque in fretta e furia e gli andò incontro fingendo di imbattersi casualmente in lui. «Buongiorno», la salutò Jan con cortesia. «Oh, buongiorno», rispose allegramente Maruscia, «non vuoi accompagnarmi al cinema?» «Volentieri», acconsentì il giovane. Lungo la strada parlarono animatamente. Maruscia era in una delle sue giornate felici, allegra, spiritosa, gentile, e Jan se ne rallegrò e modificò il suo atteggiamento, dapprima piuttosto contegnoso. Anche egli diventò spensierato e giulivo e si sentì subito a suo agio in compagnia di Maruscia. Quasi stentava a riconoscere la donna che l'aveva sempre trattato come un bambino. La Lobova aveva compreso che se non voleva perdere il suo giovane amante doveva completamente mutare il suo atteggiamento verso di lui, e ci teneva più che mai a non lasciarselo sfuggire, non solo perché egli soddisfaceva i suoi sensi, ma soprattutto perché la relazione con Jan le dava l'illusione di rivivere una seconda giovinezza. Lo aveva chiaramente compreso nel triste periodo in cui Jan si era allontanato da lei, e così la loro tresca riprese e continuò, ma con questa differenza, che Jan ora aveva la parte preponderante. Questa era Mecca RPM con il brano Ride Flames. Ora si ripassa alla controinformazione, ci riallacciamo con la prima lettura, quella che era il testo di Romanos per quanto riguarda lo sciopero della fame che ha iniziato, con due comunicati, uno da parte dei detenuti della quinta ala della prigione di Korydallos e l'altro da parte dei suoi coimputati per quanto riguarda la doppia rapina a Velveto. Allora, leggiamo prima il piccolissimo, le due righe scritte da 75 detenuti. 75 detenuti della quinta ala delle carceri di Korydallos iniziano una due giorni di astensione dal cibo. In questo modo siamo accanto all'anarchico in sciopero della fame Nikos Romanos, che chiede il permesso istruttivo di cui ha diritto. Concessione immediata della domanda di Nikos Romanos, quinta ala, prigionieri di prigione di Korydallos. L'altro testo invece, come ho detto prima, è un testo in solidarietà con il compagno da parte dei suoi computati. Ne leggiamo leggiamo subito il testo. Ed è necessario andare avanti per riempire tutti i vuoti, anche se non autodistruggersi, attingendo forza dal passato. Ogni era ha la sua inquisizione, il vuoto esiste finché non ci cadi dentro. Un soffio di libertà lontano dal cemento del carcere, poche ore in cui lo sguardo può viaggiare liberamente senza inciampare tra le sbarre. Un cielo senza filo spinato, passi che non c'è bisogno di contare, movimenti regolati leggermente in modo diverso. Il 10 novembre l'amico e compagno Nikos Romanos ha iniziato uno sciopero della fame esigendo un soffio di libertà. Dopo aver superato gli esami in un'università di Atene, sta lottando per vincere qualcosa che è conforme alle loro leggi e che lo autorizzano ai permessi istruttivi. Da parte nostra siamo accanto a Nikos Romanos e la sua lotta, accanto ad ogni mossa che desidera e deve prendere per accompagnare la sua battaglia, accanto ad ogni espressione di solidarietà aggressiva. Perché le stelle che si vedono cadere nel vuoto sono quelle che portano i nostri sogni, i nostri desideri rabbiosi, i nostri sorrisi pieni di significato, perché non scambiamo una vita irascibile con qualsiasi cosa. Accettazione immediata della domanda del compagno Nikos Romanos per il permesso istruttivo. Fivos Arsiris, Algiris Dalios, Andreas Dimitris Bulsukos, Yannis Vialidis, Dimitris Politis. Quarta ala della prigione di Korydallos. E questi erano i due testi in solidarietà con Nikos Romanos. Ora ci ascoltiamo un altro brano prima di passare a una nuova lettura di Sergio Spiaseschi e Nessuno ci salva. Loro sono Plastic Assault e il brano è The Bite. In den Kopf schießen in den Kopf, Mann, zerstör das Gehirn. We'll be right back. Un giorno Filippo il Calvo andò a trovare Baran. Pochi sapevano dove abitasse il mongolo. Come i colleghi chiamavano Olek, probabilmente per i suoi occhi obliqui e per gli zigomi sporgenti. Filippo apparteneva alla categoria dei delinquenti professionali di Minsk e con lui Baran manteneva rapporti come un suo pari. La gerarchia in quel mondo veniva stabilita secondo l'esperienza, la furbizia e soprattutto secondo il carattere dell'individuo. Anzi, l'espressione uomo di carattere acquistava nella mala un significato speciale e designava un uomo sicuro di sé, coraggioso, fidatissimo come compagno, insomma, un uomo sul quale si poteva contare in tutto e per tutto e che manteneva rigorosamente la parola data. Filippo non trovò Olek in casa, salutò dunque galantemente Papka. «I miei omaggi, madama! Buongiorno, voleva vedere Olek? E infatti, ho da parlargli di un affare molto importante concernente il suo lavoro. Possibile che sia un ladro anche questo qui?» pensò Papka osservando la figura distinta di Filippo, il suo abito elegante, il suo cranio un po' pelato, lucido di un unguento che, dopo tanti altri, doveva a sua volta difenderlo dalla calvizie. «S'accomodi», disse Papka con bel garbo. «Permettete allora che mi presenti», disse solennemente Filippo. «Io sono il principe Razumovsky». Si inchinò e baciò la mano a Paulinka. Colpita da quel titolo altisonante e dall'aspetto signorile di Filippo, la ragazza si sentì imporporare le guance mentre il principe continuava a farle dei complimenti. Filippo sapeva che Olek aveva una merla come amica e poteva dunque permettersi il lusso di prenderla un po' in giro, naturalmente senza oltrepassare i limiti oltre i quali la ragazza avrebbe potuto pensare che egli facesse il cascamorto con lei. Filippo era un vecchio dritto e nutriva un profondo rispetto per il codice cavalleresco e per le tradizioni della vera classica mala. Ma un conto era sedurre l'amante di un collega e un altro divertirsi alle spalle di una bella donna. «Purtroppo non ho mai molto tempo libero», egli disse. «Ma è sempre un piacere per me passare un momento in compagnia di una bella signora». E Filippo, che aveva sempre quell'espressione sprezzante sul labbro sporgente e sbadigliava con aria annoiata, Filippo, che atteggiava sempre il suo volto come se avesse appena ingoiato un'oncia di olio di ricino, come dicevano lui e i suoi colleghi, per sottolineare la sua serietà e importanza di dritto di classe, con Paulinka divenne disinvolto e allegro. Chiacchierava e scherzava amabilmente, mandando in visibilio la ragazza. «Ah, se il mio Olek fosse così», pensava Papka, «ma che, tace sempre come un muto e mi guarda con i suoi occhi da basilisco. Già, ma questo signore non è certamente un ladruncolo come lui». Un'ora dopo tornò Baran, che era andato con Jana a studiare un certo affare ideato da quest'ultimo. Di fronte al giardino fiorito vi era una grande latteria dove erano esposti in vendita latte, burro, formaggi e latticini vari. Vi era sempre un gran movimento di clienti in quel negozio e verso sera la cassa doveva rigurgitare di quattrini. Jan, dopo lunghe e pazienti indagini, era giunto alla conclusione che i padroni di sera non portavano via il denaro. Studiando accuratamente il terreno, trovò una porticina che conduceva nel negozio dall'entrata di servizio in un angolo buio della scala. Nessuno se ne serviva mai e dagli anelli pendeva un grosso lucchetto arrugginito. Doveva essere chiusa anche dall'interno con un chiavistello. Dapprima Jan giudicò impossibile penetrare nel negozio da questa parte, anche se si fosse riusciti a togliere il lucchetto e a scassinare la serratura, e continuava a gironzolare intorno al negozio lambiccandosi il cervello per trovare una soluzione. Ci si era impuntato ormai. Più del denaro lo allettava l'ambizione di studiare da solo questa difficile impresa. E infine gli venne un'idea. Notò che ogni 2 o 3 giorni arrivava alla latteria un furgone dal quale venivano scaricate casse di burro e formaggio. La maggior parte di quelle casse veniva portata direttamente attraverso il negozio in un piccolo retrobottega del fondo, nel quale appunto conduceva la famosa porticina. Jan osservò ancora che la merce veniva scaricata non solo dal conducente, ma è da un altro uomo che giungeva col furgone, ma anche dai garzoni della latteria. Il personale di questa era composto da due uomini, un ragazzo e due donne. Allo scarico delle casse mettevano mano 4-5 uomini e Jan si disse: se io prendo una cassetta, me la carico sulle spalle e la porto dentro, quelli del negozio penseranno che sono giunto col furgone e quelli del furgone mi crederanno uno degli inservienti della latteria. Nel caso che dovesse succedere qualcosa, dirò che volevo aiutare per guadagnarmi una mancia. La prima idea di Jan era quella di portare la cassetta nello stanzino di fondo e di nascondervisi dentro, naturalmente dopo aver aperto la porticina dall'esterno, così avrebbe lavorato di sera uscendo poi tranquillamente dal retrobottega. Ma dopo aver riflettuto abbandonò questo piano. Qualche giorno dopo, Jan, sempre appostato nelle adiacenze del negozio, vide giungere l'ormai ben noto furgone che andò a fermarsi davanti alla latteria. Dato che il negozio era affollato di clienti, uscì ad aiutare soltanto uno dei garzoni. Jan si tolse il berretto, se lo ficcò in tasca ed entrò nel negozio. Quando poi il garzone e l'autista entrarono con una pesante cassa, Jan uscì in strada, si caricò sulle spalle una cassetta più piccola e rientrò nella latteria. I due uomini uscivano dal retrobottega proprio nel momento in cui egli vi entrava. Posò la cassetta per terra e tirò fuori svelto una lampadina. Vide a sinistra della parete di fondo la porticina, era chiuso con un grosso catenaccio a due ganci. Con un balzo si avvicinò e in un batter d'occhio spinse la sbarra, che cedette con facilità. Uno dei ganci invece resistette, così che Jan durò fatica ad aprirlo con tutte e due le mani. Leggermente eccitato, rientrò in negozio e attese tra i clienti finché i due uomini uscirono in strada per prendere un'altra cassetta. Allora si mise in testa il berretto, uscì dalla latteria e andò difilato dal suo maestro. Trovò Baran in casa e gli raccontò per filo e per segno quello che aveva fatto, esponendogli il piano che aveva elaborato, e infine gli disse: dobbiamo andarci stasera stessa, appena avranno chiuso penetreremo nel retrobottega e porteremo via un bel gruzzolo. Mentre il ragazzo parlava, Baran lo fissava con gli occhi socchiusi. Quando ebbe finito, gli batté una mano sul ginocchio dicendogli in tono compiaciuto: Ormai sei un dritto veramente in gamba, bravo! Jan arrosì di gioia, sapeva che il suo maestro era piuttosto parco di lodi e perciò apprezzò enormemente quelle poche parole. Uscirono e si recarono nei pressi della latteria, dove Baran ebbe modo di rendersi conto personalmente della cosa. Il lucchetto è grosso ma semplicissimo e roba da principianti, fallo saltare. Decisero che al momento buono Jan sarebbe entrato e Baran avrebbe rimesso a posto il lucchetto perché non si notasse alcun cambiamento. Ciò che complicava un po' l'esecuzione del piano era l'esistenza di due ampie vetrine e la cassa si trovava proprio vicino ad una di esse e dalla strada si poteva benissimo vedere quello che succedeva all'interno. Bisognerebbe prendere con noi un altro dritto, così che mentre tu sei dentro a lavorare noi ci fermiamo davanti alla vetrina a far quattro chiacchiere, disse Baran. La visita di Filippo allora arrivò come il cacio sui maccheroni. Oleg gli presentò Jan e gli propose di prendere parte all'impresa progettata. Sbadigliando da rompersi le mascelle, sporgendo con importanza il labbro inferiore, Filippo si mise a esaminare dalla testa ai piedi Jan, che sotto quello sguardo si sentì estremamente impacciato. Filippo dovette restare soddisfatto di questo esame perché dichiarò di accettare con piacere la proposta che gli veniva fatta. Egli stesso era venuto da Oleg per proporgli un altro affare in via Pavlovka. Si potrebbe far piazza pulita, ma anche lì ci vogliono tre uomini. Beh, benissimo, rispose Baran. Andremo là anche noi tre. Ma è un po' un pivello quello lì, e accennò col capo verso Jan che si era allontanato. Beh, non ti preoccupare. Ha già fatto più di un colpo con me. Posso assicurarti che è un ragazzo di carattere e che quando lavora ha testa sulle spalle. Poco dopo Filippo si congedò stringendo la mano ai due soci. Solo allora Jan si sentì un vero lato di professione e ne fu molto felice. questi erano Pneumatic Detach, il brano Hello. Ora si ripassa alla controinformazione, si va in Cile, dove ci sono notizie un po' di merda, perché il compagno Hans Niemeyer è stato praticamente picchiato in carcere. Abbiamo ricevuto informazioni che nelle prime ore di mercoledì è stato picchiato il nostro compagno Hans Niemeyer Salinas, che sta scontando una pena di 5 anni e 10 mesi per aver posizionato un dispositivo esplosivo in una banca il 30 novembre 2011. Hans sta mantenendo un comportamento tranquillo, tentando di ottenere dei benefici in carcere. Ha mantenuto un atteggiamento refrattario al sistema, rifiutandosi di assumere posizioni docili nelle perquisizioni, intervenendo nei pestaggi ai prigionieri e ricordando alle guardie che in lui e vari compagni imprigionati troveranno sempre degli ostacoli quando cercheranno di calpestarli. Non sappiamo precisamente che tipo di ferita ha riportato Hans, se non quello che dice nella sua lettera: lividi sul volto, ferita ad un orecchio e zoppica su un piede, che non sembrano cose lievi dal momento che il compagno soffre di problemi alle orecchie perché era a pochi metri dall'esplosione della bomba per cui è stato condannato. Da allora Hans soffre costantemente di otite ed ha avuto varie infezioni alle orecchie con rilascio di pus ogni 2 settimane circa. Sebbene sulla lista di attesa, non è ancora stato operato e non ci sono certezze su quanto potrebbe accadere. Informeremo su qualsiasi notizia. Di seguito poi andiamo a leggere qualche parola del compagno, che dice: vorrei segnalare che oggi mercoledì 12 novembre alle ore 6:30 c'è stata un'incursione violenta che non volete assumere atteggiamenti di sottomissione, guardare in basso, mettere le mani avanti e girare. Sono stato ammanettato, picchiato sulla testa, ferito ad un orecchio e con una chiave nella gamba che mi hanno lasciato zoppo più varie altre contusioni. Il gruppo che ho operato è il gruppo speciale anti-motines, la GEAM. Sono responsabile direttore della prigione Juan Latelier Araneda e ministro della giustizia José Antonio Gómez. Hans Niemeyer Salinas, terzo piano, modulo H Norte, carcere di alta sicurezza da Santiago del Cile. E questa era la notizia di merda che arriva dal Cile, invece non c'è da aggiungere niente, se no farsi ancora più girare i coglioni quando accadono certe cose. Ora ci ascoltiamo un brano, il brano è Headshot, loro sono Hunter Art, e poi dopo si ritorna qui ancora una volta con Nessuno ci salva di Sergius Piasecki. Ready for a headshot. con l'aiuto del grimaldello e del piede di porco. Con un'aria leggermente annoiata, Filippo, elegantemente vestito, passeggiava nei pressi della latteria. Sporgendo il labbro inferiore, come sempre quando voleva darsi l'importanza, osservava i passanti che camminavano in senso inverso sul marciapiede. Soprattutto si soffermava a guardare le donne. Oleg Baran e Jan stavano seduti su una panchina del viale da dove tenevano d'occhio la porta della latteria e aspettavano. Pochi minuti dopo le sei, gli ultimi clienti lasciarono il negozio, seguiti poco dopo dal personale inserviente. Per ultimi uscirono dalla latteria il padrone e sua moglie. Quest'ultima chiuse la porta, abbassò la saracinesca e chiuse anche questa con un lucchetto, accoccolandosi sul marciapiede in una posa ridicola. Jan aveva osservato attentamente tutti quelli che erano usciti dal negozio. Nessuno era rimasto dentro. Il ragazzo si alzò attraverso il viale e si incamminò lungo il marciapiede prospiciente la latteria. Baran lo seguiva a pochi passi di distanza. La scala era silenziosa e buia. Oleg attese un paio di minuti, poi col grimaldello tentò di far saltare il lucchetto, ma, contrariamente a quanto aveva previsto, fu una cosa tutt'altro che facile, perché sia il lucchetto che la serratura erano arrugginiti, ma con un po' di sforzo infine vi riuscì. La porta di ferro, cigolando sui cardini, cedette lentamente alla spinta. Jan accese la lampadina e sgusciò dentro l'andito buio. Baran gli chiuse la porta alle spalle e, rimesso a posto il lucchetto, uscì di nuovo in strada. Davanti alla latteria, pochi passi più in là, si imbatté come per caso in Filippo. Si strinsero la mano e si fermarono proprio davanti alla vetrina del negozio. Mentre conversavano, badavano a celare con le proprie persone l'interno alla vista dei passanti. Avevano tutte e due l'aspetto di persone davvero per bene. I minuti passavano, ma Jan non si avvicinava alla cassa e Baran incominciò a impensierirsi. Sbirciò dentro, non vide nessuno. Possibile che si sia lasciato prendere dalla fifa al momento buono? Si chiese. Il fatto era che Jan aveva incontrato un ostacolo imprevisto. La porta che conduceva dal negozio nel retro bottega era chiusa a chiave. Egli tentò di aprirla col piede di porco, ma era così incastrata negli stipiti che non era neppur possibile far leva con l'arnese per scardinarla insieme alla serratura. Il giovane si sentiva sempre più nervoso, temeva non tanto l'insuccesso dell'impresa quanto il giudizio dei compagni. Se non fosse riuscito nel suo scopo, servendosi della lampadina, studiò attentamente la porta. Gli venne in mente ciò che gli aveva detto una volta Baran, e cioè che il centro dei due battenti rappresentava sempre il punto più debole della porta, e alla peggio si poteva sempre sfondarli con le ginocchia o con le spalle dopo avervi praticato nelle fessure dei fori. Jan tirò fuori il suo coltello a serramanico e si mise a intaccare in profondità uno dei due battenti. Riuscì infine ad aprirvi una fessura. Per accelerare il lavoro, Jan non temeva di fare un po' di rumore e quindi introdusse nella fessura la punta del piede di porco e con un colpo deciso fece saltare un pezzo di battente. Dopo di ciò gli fu facile allargare l'apertura finché riuscì a infilarsi egli stesso passando nel negozio. Vide che la porta era stata chiusa dall'interno a catenaccio e a chiave, ma non perse tempo ad aprirla. Gli bastava il passaggio che aveva praticato. Scorse subito Filippo e Baran davanti alla vetrina. Ogni tanto qualcuno passava accanto a loro. Jan si avvicinò in fretta alla cassa e constatò che i tre cassetti erano chiusi. Baran vide subito con la coda dell'occhio che Jan era riuscito a entrare, allora tirò fuori di tasca un giornale. I due soci si disposero in modo da celare il più possibile agli sguardi di chi vi si trovava in strada all'interno della cassa che si trovava all'estremità del banco. Sfogliavano il giornale, discutevano e gesticolavano, commentando vivacemente le ultime notizie. Dentro, con abile manovra, Jan fece saltare la serratura del cassetto superiore che ispezionò accuratamente. C'erano libri mastri, carta, conti e una cassettina con gli spiccioli. Procedette allo stesso modo con gli altri due cassetti. Grossi plichi di banconote gli caddero sotto gli occhi, erano avvolte in fasce di carta, ciascuna delle quali portava una cifra che indicava la somma racchiusa. Rovesciando a terra il contenuto del cassetto, Jan cacciò in fretta e furia i plichi in una borsa da viaggio che aveva portato con sé, poi tornò a esaminare la cassa in fretta, ma con precisione, perché le tracce dello scasso non apparissero in modo troppo evidenti all'esterno. Rimise i cassetti a posto e scomparve velocemente nel retrobottega. Là prese dalle cassette alcune forme di formaggio e qualche pane di burro e ne fece un unico pacco, piuttosto pesante e voluminoso. Poi si fermò dietro la porticina finché non udì due leggeri colpi. Rispose con due colpetti uguali. Allora la porta si aprì ed egli uscì sulla strada di servizio. Baranne chiuse la porta ancora una volta col lucchetto. Né dalla strada né dal cortile era possibile accorgersi che la latteria era stata visitata dai ladri. Baran prese dalle mani di Jan il pesante pacco e gli disse di andare dritto filato a casa col denaro. Dopo qualche secondo uscì anch'esso in strada, percorse un tratto a piedi e poi chiamò una carrozza e vi salì con Filippo, ordinando al cocchiere di dirigersi verso la collinetta. A un certo punto del tragitto discesero e proseguirono a piedi. Jan li raggiunse qualche minuto dopo. Lì a casa Paolinka stava preparando la cena nel cucinino. Oleg chiuse a chiave la porta e Jan, con un gesto solenne, vuotò a terra il contenuto della borsa. «Conta!» «E dividi in tre parti uguali», gli disse Baran. Senza rompere i plichi, il giovane fece in fretta il calcolo e poi formò tre mucchi uguali di banconote. A ognuno toccò una grossa somma. Jan era fuori di sé dall'orgoglio e dalla gioia di aver dato una prova così brillante di sé. Raccontò ogni particolare di come avesse lavorato lì dentro. Baran taceva, ma Filippo, appena il ragazzo ebbe finito, disse con gravità: «Un affare come questo va innaffiato, pago io!» «È lui», indicò Jan. «Può venire con noi, se avremo qualcosa d'altro da fare. Sono sicuro che non ci romperà le uova nel paniere». E spalancò la bocca in un vasto sbadiglio. We'll be right back. E questi erano Past Legion con il brano Woodside. Ora si ritorna alla controinformazione con un'iniziativa in solidarietà con Gianluca e Adriano a Padova. Leggiamo il testo che chiama l'iniziativa: la civiltà tecnologica investe oramai ogni aspetto della nostra quotidianità. Tutte quelle forme di vita che si sottraggono ancora alla schiavitù e all'alienazione del vivere civile vengono o distrutte oppure marginalizzate. Esiste anche la possibilità di condurre un'esistenza libera e selvaggia, priva di ogni forma di autorità. I movimenti ecologisti degli ultimi anni puntano ad una liberazione totale oppure si limitano a criticare solo uno degli aspetti del dominio? Vogliamo riflettere soprattutto sull'importanza di una lotta ecologista radicale al sistema, tentando di riflettere intorno al tentativo del dominio di costruire ed imporre un totalitarismo tecnologico. L'iniziativa sarà a sostegno di Gianluca e Adriano, compagni anarchici in carcere dal settembre 2013, accusati di aver attaccato l'industria dello sfruttamento animale e della terra e per questo condannati. Ed è proprio da questo che vogliamo partire nei dibattiti, tentando di valutare quali rapporti intercorrono tra lotte individuali e lotte popolari, per soffermarci infine sullo stato della solidarietà rivoluzionaria nei confronti dei compagni incarcerati. Poi c'è una mail per chi vuole ulteriori informazioni sulle iniziative, la trovate sull'articolo pubblicato su Radiazione. Allora, leggiamo il calendario: sabato 29 novembre, ore 16, dibattito sul dominio tecnologico con alcuni redattori del sito Resistenze al Nano Mondo. Ore 20:30, cena vegan benefit, a seguire concerto in acustico. Invece domenica 30 novembre, ore 9, colazione in compagnia. Ore 10, dibattito sulle pratiche individuali collettive di resistenza alla nocività, a seguire pranzo vegan benefit, porta alla distro, né fasci né guardie. Le iniziative si terranno verso la Marzolo occupata, via Marzolo 4, Portello, Padova. E questa era per quanto riguarda la notizia di controinformazione, l'iniziativa che faranno i compagni a Padova in solidarietà con Gianluca ed Adriano. Ora noi ci ascoltiamo un brano, loro sono Rabbi Jung, il brano è Beating Track, e poi dopo si ritorna qui e ancora una volta Nessuno ci salva di Sergio Spiasecki. Yeah. c'era in via Petropavlovka un negozio di merceria e cosmetici, ma ci si potevano acquistare gli oggetti più svariati: portafogli, profumi, calze, giocattoli, carte da gioco, bretelle e biancheria. Questo negozio aveva attirato l'attenzione di Filippo. Andava a comprarvi sigarette o fiammiferi e intanto approfittava per studiarlo attentamente. Quando ebbe raccolto tutti i dati necessari, decise di agire. Invitò Baran come socio, ma poiché l'impresa richiedeva almeno 3 uomini, essi decisero di portare con loro anche Jan, che si era intanto dimostrato così in gamba nella recente impresa alla latteria. Il sabato seguente, al cadere della notte, Jan e Oleg si diressero verso il centro, dove dovevano incontrarsi con Filippo. Stavolta il vecchio furfante indossava una tuta da operaio e teneva sotto il braccio una logora cartella e un grande ombrello. La cartella conteneva gli arnesi da lavoro, più una sega e una fune. La sera era molto buia. Filippo e Baran salirono sull'immondezzaio che si trovava nel cortile e di là si inerpicarono sulla tettoia di una baracca bassa, dove scardinarono una porticina che conduceva nel solaio della casa in cui si trovava il negozio. L'impresa questa volta si presentava particolarmente difficile perché nel cortile, sul marciapiede davanti al negozio, continuava a passare gente. Un rumore proveniente dal solaio poteva essere facilmente udito e per maggior sicurezza quindi Jan fu lasciato fuori. Aveva messo in tasca dei sassolini, coi quali doveva fare dei segnali ai compagni che lavoravano nella soffitta. Il tetto di questa era rivestito di lamiera. Ogni sassolino che vi cadeva lanciato da Jan veniva perciò chiaramente udito dall'interno. Un colpo indicava di stare in guardia, 2, uno dietro l'angolo, significavano: potete stare tranquilli. Il giovanotto passeggiava su e giù per il marciapiede davanti al negozio. Ogni tanto entrava nel cortile fino al gabinetto, da dove poteva comodamente dominare la situazione. A un certo momento udì provenire dal solaio lo stridulo rumore di una sega e allora buttò un sassolino sul tetto. Il rumore cessò. Ne buttò altri 2 e tese l'orecchio. Dopo un attimo gli giunse un rumore quasi impercettibile a cui certo nessuno avrebbe badato e quindi lasciò lavorare i compagni. Questi avevano sgombrato una parte del pavimento di legno del solaio, ripulendolo della sabbia di cui era ricoperto. Dopo aver praticato una 15ina di buchi, distanti 1 centimetro l'uno dall'altro, si erano messi a segare gli spazi compresi tra essi. Fu allora che Jan udì il rumore che ritenne necessario zittire col lancio di un sassolino. Baran e Filippo avevano smesso subito di lavorare, ma rassicurati poco dopo dai 2 colpi, erano tornati all'opera. Tuttavia, messa da parte la sega, si misero a tagliare l'assito col coltello e a scalzarlo col piede di porco per circa 1 metro quadrato. Sotto le assi c'era uno strato di argilla che gettarono in un angolo del solaio e finalmente apparvero le assi che formavano il soffitto vero e proprio del negozio di merceria. Filippo praticò in mezzo al quadrato 4 buchi molto ravvicinati l'uno all'altro. Col coltello eliminò gli spazi intermedi facendo precipitare l'intonaco e provocando del rumore nel negozio sottostante. Subito si fece udire un colpo sul tetto, seguito dopo una pausa breve da altri 2. E allora Filippo infilò nel buco l'ombrello, che penetrò così nel negozio e quindi lo aprì. Solide funicelle erano legate alle stecche dell'ombrello per impedire che si rovesciasse nel caso vi cadessero troppi calcinacci. Questo stratagemma doveva evitare che i calcinacci cadessero sulle vetrine orizzontali che si trovavano sui banchi e le rompessero, facendo quindi rumore. Il lavoro che era stato fatto con lo strato superiore delle assi venne ora ripetuto con quello sottostante, però venne praticata un'apertura molto più piccola, appena sufficiente perché vi passasse un uomo. Dopo averne ripuliti gli orli dal materiale che li ingombrava, Baran vi si calò per mezzo di una corda e giunse finalmente a mettere i piedi nel negozio. Per prima cosa per ricoprire le finestre e le porte con dei grossi cartoni che trovò in un angolo perché non trapelasse all'esterno il minimo raggio di luce. Era sì un eccesso di prudenza, perché davanti alle porte e alle finestre erano già state calate le saracinesche di lamiera ondulata, ma poiché volevano lavorare a luci accese per imballare bene la merce, la prudenza non era mai troppa. Il più piccolo spiraglio di luce avrebbe potuto tradirli. Intanto Filippo, scostate le assi del tetto, bisbigliò a Jan, che attendeva presso l'immondezzaio, di andare a verificare se dalla strada non si notasse nulla di sospetto. Il ragazzo si allontanò e tornò un momento dopo, assicurando con un gesto che tutto filava a meraviglia. E allora Filippo gli fece cenno di salire nel solaio e tutti e due si calarono nel negozio, raggiungendo Baran che, alla luce di alcune candele, stava già raccogliendo la merce. Questa venne suddivisa sul pavimento in diversi mucchi secondo la qualità. Ogni articolo venne tolto dall'involto di carta o dalla scatola perché occupasse meno spazio possibile. A questo lavoro attendevano Oleg e Jan mentre Filippo imballava la roba, formando dei pacchi atti a essere issati attraverso l'apertura praticata nel soffitto. Di carta e di spago ce n'era una quantità nel negozio e Filippo li usava senza economia. Il lavoro procedeva speditamente ma senza fretta. Il giorno dopo, domenica, i negozi sarebbero rimasti chiusi ed essi contavano di portar via la merce la sera successiva. Dopo alcune ore il lavoro poteva considerarsi finito. Tutta la roba di valore era stata imballata. Non rimanevano che cianfrusaglie ingombranti e di poco prezzo. E prima che spuntasse l'alba, i tre soci, servendosi della fune che avevano portato con sé a questo scopo, avevano già issati i pacchi in soffitta. Li depositarono vicino alle assi che avevano rimosse prima di poter penetrare dalla tettoia nel solaio. Si accordarono che Jan e Baran sarebbero giunti con un mezzo di trasporto a sera inoltrata e Filippo li avrebbe attesi in strada. La sera, quindi, come d'accordo, Baran e Jan giunsero con una carrozza in via Petropavlovka. Stash fece entrare il cavallo nel portone attivo al negozio e rimase lì ad aspettare. Filippo salì sulla tettoia e penetrò come il giorno prima nel solaio. Tutto era in perfetto ordine e in pochi minuti scaraventò nel cortile sottostante tutti i pacchi. Oleg e Jan li trasportarono sulla carrozza che, poco dopo, con Baran a cassetta accanto a Stash, uscì dal portone e si avviò per la strada. Jan e Filippo, invece, si recarono dal ricettatore a piedi. E questi erano P.A.L. con il brano Reborn. Ora si ritorna alla controinformazione, l'ultima notizia di controinformazione prima di chiudere la diretta. Si va in Cile, dove ci sono degli aggiornamenti sul secondo processo a Victor Montoya. Il 20 ottobre 2014, da 20 ottobre 2014 è in corso il secondo processo contro Victor Montoya, accusato per l'attacco alla caserma di West Chagas. Dopo essere stato assolto nel primo processo, la Corte Suprema ha annullato la sentenza in un clima di isteria antiterrorismo dopo l'attacco al subcentro, realizzando un secondo processo. Già sono trascorse un paio di settimane da quando è iniziato il processo inquisitorio e la Procura del Sud ha aggiunto una nuova prova in questo secondo processo, basato sulle dichiarazioni di testimoni che non sono stati ammessi nel primo processo. Questi testimoni chiave, indottrinati dalla Procura del Sud durante il periodo di indagine e durante l'assoluzione nel primo processo, hanno detto che si trovavano vicini al luogo dell'esplosione il 9 febbraio 2013. In questa settimana ci attendiamo che inizi la parte della difesa di Victor Montoya, che dimostrerà la manipolazione evidente della scena del crimine dopo l'attacco esplosivo e smentendo i desideri inquisitori della Procura del Sud. Ecco, gli aggiornamenti su Victor Montoya. Termina qui la diretta d'azione. Lo ricordo, il prossimo appuntamento è per venerdì 21 con la diretta in cui ci sarà solo controinformazione, le riflessioni, le provocazioni la musica ovviamente, altrimenti vi rompite le palle a sentire solo testi e riflessioni e provocazioni. Invece per la lettura con Sergio Spiasecchi e Nessuno ci salva si arriva a lunedì 24 novembre, quindi Esattamente tra una settimana, quindi la radio ha ripreso la sua programmazione con il lunedì di letture controinformazione e venerdì solo di controinformazione. Con questo è tutto, vi lascio alla jingle e l'appuntamento è venerdì 21 novembre. Radio Azione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione.org.